Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Anche quest'anno tutti i tifosi anti-Juventus dovranno fare una scorta di Malox. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Subito il cross per Ibrahimovic che vola! Chi poteva segnare il primo gol del Milan in stagione se non quel mostro di Zlatan Ibrahimovic? 1-0. Abbiamo creato più occasioni di loro, abbiamo fatto più tiri di loro, poi gli episodi ci sono andati contro, loro c'erano Ibrahimovic, noi non c'abbiamo Ibrahimovic. Loro tutto quello che hanno creato quando Ibra c'era la palla. Parte Ibrahimovic, rigore semplicemente perfetto, palla sotto la traversa e in porta per il 2-0 Milan. Sto lavorando. Questa è la seconda partita ufficiale e oggi abbiamo vinto e potevo fare più gol. Se avevo 20 anni facevo ancora 2, però meno male che ho 39. Ho detto tante volte, sono come Benjamin Button, nato vecchio, moro giovane. Six-three. It's a fifth title here for the undisputed world number one. It's his first since 2015 in the Italian capital. Buongiorno a tutti. Lorenzo Nespoli, Gianmarco Ferronato. Vi lascio immaginare il mare della fanghiglia social, mi dicono, sulla vicenda dell'esame taroccato di Luis Suarez. Parleremo anche di questo, anche se riguarda più le cronache giudiziarie, questa inchiesta che parte da molto lontano e in cui Suarez non è indagato, però parleremo anche di questo. Però vi lascio immaginare il mare della fanghiglia social. Pierluigi Pardo, buongiorno, mi fa un radio tweet in perfetta lingua italiana, per favore. Ma il candidato, esatto. Il candidato Pardo. No, è Ibra. Mai come quest'anno la stagione iniziata del Milan sotto il segno di un giocatore. Sia nell'Europa League che in campionato è la differenza di questa squadra, il giocatore che può veramente avvicinare le distanze. Io non so fino a dove si possa spingere il Milan quest'anno, perché comunque secondo me una distanza rispetto ai primissimi posti resta, però se questa distanza può essere colmata o comunque molto avvicinata, la risposta è sempre la stessa e a quattro lettere. Secondo me ne ha tre. Allora io vorrei partire da tre lettere, salutando Carletto Pelegatti. Ciao Carlo. Mi scuso, stavo facendo la dichiarazione dei redditi, non ho visto mai chiamato, ma era un momento delicatissimo, quindi allora io ho convocato Carletto Pelegatti, dato che sono perfido, per parlare di un genio il cui cognome finisce per Vic ma comincia per Gioco. Ciao Carlo. Sì, buon pomeriggio. Mi sono gustato e mi è dispiaciuto la sconfitta di Berrettini, soprattutto la seconda parte degli internazionali d'Italia. Ho ammirato molto, ho stato fortunato. A volte bisogna essere fortunati a essere nel televisore giusto al momento giusto, come quando l'anno scorso ho visto e ho ancora nella mente quella signora sulle tribune di Wimbledon che alle due match ball di Federer disse: a due match ball. Poi purtroppo io non sono un grande, a me piace il tennis, non sono un nadaliano, giocoviano, federiano, mi piace vedere ai grandi livelli, e quindi ero a vedere quella partita e ho visto la partita di Shapovalov e Schwartzman, e che è stata una partita micidiale, sì. Bellissima, a tirare a 200 all'ora, perché non il tennis non è che tu ti stanchi a correre, ma quando tiri a quella velocità ti stanchi anche a tirare, certo. Si fa fatica anche a tirare, perché sai, se io palletto, sto sul fondo, ho una buona gamba e alzo ai miei livelli, ai livelli nostri, ma quando tiri forte ti stanchi. E Schwartzman Schiappovalo è stata una partita straordinaria. Ieri ho visto Djokovic che ha sofferto per i primi tre game, però quando è riuscito a far tre pari ho detto a mio figlio: vedrai che alla fine vince in due set. E in effetti, ma non perché sono un fenomeno, perché la differenza tra l'1, il 2 e il 3 e il 14 è proprio quello. Sono tutti uguali, ma al momento decisivo ricordo ancora la golarsa con la Evert. Ha avuto della palla del andiamo nella storia. Sì. Nel primo set, alla fine chi ha vinto? La Evert. Chris. È sempre così, è sempre così. E ieri è stato così. No, perché per chi, per i pochi che non lo sapessero, è un grande giocatore di tennis, Carlo Peregatti. Ma a padel con te gioca Pierluigi? No, non ce l'hai provato? Io no, mai gioco a tennis, io, scusate. I succidanei del tennis, vedo tutti che si buttano lì. Venite sul campo, amici miei. Venite sul campo rosso, 30 metri. Cominciate a fare i fenomeni, di metto a destra, a sinistra, a destra, a sinistra. Amici del padel. Amici del padel. Passiamo all'altro. È una sfida velata, una sfida velata. Da un 2-0 all'altro. All'altro Vic. Allora, a me, guardandolo ieri sera, è venuto in mente l'aggettivo che è stato usato dalla Gazzetta di oggi: infinito. Carletto. Sì, e infatti si chiama Ibra. Io l'ho soprannominato Ibra Supremacy. Ho un cavallo che si chiama Invincible Ibra, e quindi non sta anche andando benino. Ha avuto qualche problemino fisico, adesso sta andando bene. Speriamo che possa debuttare presto, e mi piacerebbe. E stavo dicendo, infinito ci sta, assoluto, enorme. E quindi io dico che se la società, il club, capisce che con uno sforzo importante in un paio di pedine, parlo del difensore centrale, ma l'idea ai tifosi del Milan, se fai un'inchiesta, l'idea di avere Chiesa, esatto. Perché bisogna essere lungimirati. Tu adesso, no, attenzione, non a 60-70 milioni, per inteso, a cifre umane, secondo cifre, diciamo così, che puoi sborsare il Milan. Sì. Ma arrivare a un sacrificio adesso, meno 30 o meno 40, questo è il mio ragionamento, fra 7 mesi potresti riaverli indietro perché va in cerca. Se tu ne spendi 20-25, ma non fai l'ultimo sforzo, rischi di buttare via i 25, i 40 c'è più possibilità che ti tornino indietro. Questo è il mio ragionamento. Io sono d'accordissimo e credo che questo sia il ragionamento del milanismo, Pierluigi, perché vedi questa squadra che ha adesso continuità non solo di risultati ma anche nel progetto, nella crescita individuale, eccetera. Ha ragione Carletto, secondo me, quando dice con il nome chiave a Chiesa sarebbe giocatore programmatico, no Pierluigi? Sì, sarebbe un giocatore programmatico, sarebbe un altro giocatore un po' come Tonali, di prospettiva e di qualità, no? Con un mix fra le qualità che ha già mostrato e il margine che ha davanti enorme. Quindi sarebbe un altro grande acquisto bandiera per poter costruire un lungo periodo, un altro italiano. Quindi capisco perfettamente l'entusiasmo di Carlo. Credo che il Milan, quando torna a essere il Milan, quando quindi si prende quell'entusiasmo lì, è veramente qualcosa di clamoroso, e quindi si scatena un meccanismo che è tutto positivo, che è tutto vincente, e credo che quest'estate siano successe delle cose da questo punto di vista. Gli chiedo però, non per rovinare, ma perché Capuano se no questa rabbia che non glielo chiedo, sul resto se è tranquillo, ad esempio su Donnarumma. La mia idea è che la costruzione di una squadra molto forte attorno a Donnarumma è la strategia giusta, cioè il Milan ha fatto bene a consolidare le cose, a impacchettare Ibra, a andare a prendere Tonali, a costruire un clima così positivo, e adesso anche per Donnarumma la voglia sarà ulteriormente aumentata di rimanere. Ma certamente, perché vedi un progetto interessante. Io per adesso non perdo energie pensando a Donnarumma, mi interessa che venga potenziata la squadra. Poi dal 5 di ottobre chiaramente bisognerà pensare a un giocatore che ieri che con lo Shamrock Rovers al 13° minuto del primo tempo evita che lo Shamrock con una bella parata non facile a terra vada 1-0 complicando le cose. E ieri, dopo essersi riposato per 78 minuti, apro una parentesi con il massimo rispetto di tutte le opinioni, ma quando Mihajlovic dice è stata una parete equilibrata, l'avete fatto sentire, con più occasioni per noi, lo dico sempre, come il caffè a fine pranzo, quando è buono ti ricordi solo quello e non ti ricordi tutto il resto del pranzo. E quindi lì non sono d'accordo, mi permetto, non ho detto che ha sbagliato, non sono d'accordo. Eppure Donnarumma è stato anche ieri decisivo e ha evitato che la parità si complicasse. Quindi attenzione, costruire un grande Milan, ti ricordi quel bel film che raccontava le vicissitudini del 2008, quando parlavano di questi prime, titoli, eccetera, certo, che c'era questa scatola, sì, questa costruzione di legno, e il protagonista diceva se io tolgo questa cade tutto. Ecco, costruire un grande Milan e togliere la base di questo castello che è Donnarumma e rischia di franare ancora tutto e rifar tutto da capo. Qual è il valore assoluto secondo te, Pierluigi, del Milan in questo campionato? Prestissimo per dirlo, mercato ancora in divenire, alcuni nodi da sciogliere compreso questo, ma hai un'idea di quale ruolo posso giocare? Ho l'idea che questo sia un campionato, non dico la sette sorelle, ma quasi. E questo è dovuto al fatto che chi era davanti secondo me al momento non è ancora andato in fuga e chi era dietro invece sta facendo le cose fatte bene, e in quelli che erano dietro c'è certamente il Milan che secondo me ha dei margini. Poi adesso è difficile dire terzo, quarto, quinto, sesto, non lo so, però è in quel gruppo lì, non penso che potrà lottare per il titolo, ma penso che potrà lottare per la Champions se le cose si incastreranno bene. Però anche il Napoli può lottare per la Champions, l'Atalanta non ce le possiamo dimenticare, anche la Roma dal 5 ottobre fino al 5 ottobre qualcos'altro farà. Quindi io ho la sensazione che Juve e Inter siano un gradino avanti alle altre, ma poi le distanze mi sembrano molto ravvicinate, e questo è anche merito del Milan che ha fatto secondo me un passo avanti molto importante, molto significativo. Sì, a proposito dei competitors, Carlo, ti chiedo ancora un'opinione su questo in triangolo, il triangolo sì, Juventus, Napoli, Roma. La Juventus ha giocato in contropiede, ha preso Morata, adesso De Laurentiis al Cerino, Milik in mano, Dzeko sarà con il morale che possiamo immaginare di nuovo agli ordini di un allenatore con il quale si legge non va d'accordissimo, insomma i competitors del Milan qualche problemino ce l'hanno in questo momento. Sì, paradossalmente il Milan era quello con più incognite, no? Da sempre, da mesi, e invece adesso è quella squadra più tranquilla e più conscia. Attenzione, io l'ho paragonato Ibrahimovic a una vernice d'oro, tu hai il muro un po' scrostato, tu gli metti su questa vernice, sembra tutto che luccichi, indubbiamente siamo molto Ibra dipendenti. Per quello che riguarda questo triangolo, devo dirti, sono molto sincero, l'ho detto anche l'altro giorno a Sky, io come tifoso del Milan, poi mi pentirò quando lui farà due gol al Milan, speriamo di no, ma tra Suarez, Dzeko e Morata, io quello che temevo di più nell'ordine erano Suarez, Dzeko, Morata. Morata è un eccellente giocatore, e però con la Juventus, con Suarez relativamente con lo stesso Dzeko, han provato, ho letto stamattina con Cavani, Morata è un eccellente giocatore, ma Suarez e Dzeko, Suarez per quello che fa lui, Dzeko per quello che fa fare agli altri. Signori, non dico una bestemmia, ma pensate alla Juventus con Ibra. Sì. Quanti gol realizza Dybala e Cristiano Ronaldo? Per fortuna ce l'ha il Milan. Sì. Però indubbiamente Morata, secondo me, pur avendomi segnato, i tifosi della Juventus diranno perché ti ha segnato nella finale di Coppa d'Italia. No, però dei tre è quello, secondo me, non meno bravo. Meno eccellente, parliamo di tre campioni, meno campione. Più normale, più normale rispetto alla normalità dei fuoriclasse che sono i due sopracitate. Bravo, se io in classifica avrei messo Dzeko, Suarez, poi Milik avrei messo e poi Morata, ma questo è un discorso che faremo. Infatti è un però poi Morata dipende che cosa hai in testa. Io credo che Pirlo abbia Dzeko avesse Dzeko in testa, perché è l'attaccante più adatto, certo, per caratteristiche, certo, per Cristiano Ronaldo. Io Suarez sono anch'io come Carlo, non sono immune al fascino di Suarez, perché secondo me siamo in una categoria enorme, con tutte le incognite, perché comunque siamo parlando di un giocatore di qualche mese più anziano di Higuain, per cui insomma non stiamo parlando certamente di un 25enne, però la ferocia agonistica, la capacità realizzativa, l'abitudine alle grandi partite che ha Suarez, insomma, dai, fuori classe. Pierluigi, di cosa stiamo parlando? Fuori classe. Una riflessione, ma tutti over 30. Il ricambio, salvo il nostro amico Mbappé, andiamo a pigliare sempre lui, ma il ricambio andiamo sempre a prendere over 30. Quando Milan ha preso l'over 38, io quanti mesi ho lottato, io mi sono visto tutto Los Angeles FC contro Los Angeles Galaxy per vedermi come stava Ibra, e ho detto prendiamolo subito, un gol, un assist e un palo, una partita straordinaria. Ma il calcio americano, ma guarda che qua siamo sempre stati tutti nel tuo partito, tu lo sai benissimo, tutti, eravamo tutti con il cartonato di Ibrahimovic. Dobbiamo andare tutti a Zingonia, tutti insieme con i nostri pullman, andiamo da Gasperini, lo abbracciamo per quel 5-0, perché questi sono le sliding doors della vita. Bravo, la nostra Gwyneth Paltrow è Gasperini, andiamo ad abbracciarla. È vero. Quel 5-0, sai, a volte è il bubone, no? Scoppia e dici che sofferenza, ma adesso sto meglio. Sì, sliding doors, viva Gasperini. Grazie Carletto, grazie, un abbraccio, abbraccio. E adesso torniamo sul discorso Juventus tra un istante con Guido Vaciago. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Dzeko Suarez, alla fine hanno preso come nome Morata. Ho molti dubbi sul giocatore, non è cosa da Juve, ci aspetterà un'altra Champions soffiata. Guido Vaciago ci stava ascoltando da Tutto Sport già prima, quando facevamo questo è caduto, ma lo recuperiamo, quando facevamo questo discorso che riguarda il triangolo di qui sopra. Avrò una domanda da fargli non appena lo recupereremo, spero tra pochissimo. Ci sono gli altri due lati del triangolo che riguardano la Roma e il Napoli, che pure sono interessanti, in particolare quelli del Laurentiis, perché Pier contropiedone della Juve, che era un po' in ostaggio di Laurentiis, e adesso De Laurentiis ha il Cerino Milik in mano. Guido Vaciago, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eccolo qua. Sai come si chiama il colonnello della Guardia di Finanza di Perugia che si occupa dell'inchiesta su questi esami, perché non è solo quello di Suarez Taroccati? No, ho guardato prima, non mi ricordo come si chiama. Selvaggio Sarri. No. Il colonnello Sarri. ma sembra tutto una gag, anche perché dicevo prima, potete soltanto immaginare il mare della fanghiglia social che si agita intorno a questo caso. Però voglio dire, Carlo, adesso a parte tutto, così come chiaramente noi possiamo metterci a fare un giorno in pretura alla radio, è una vicenda che monitoreremo, che ovviamente appartiene più alla cronaca giudiziaria, e quindi voglio dire, poi se ci saranno responsabilità, ci saranno. Ovviamente in questo momento è l'apertura di un'inchiesta, è un'indagine, sappiamo che il calciatore non è... correggimi se sbaglio, non è indagato né lui né il suo entourage. Bisogna capire se ci sono state pressioni vere e proprie, se è stato un eccesso, diciamo, di deferenza nei confronti di un candidato all'esame così importante. Insomma, bisognerà capire e seguiremo. Magari l'impressione è anche che la Juventus abbia sentito puzza di bruciata e abbia mollato il colpo, Guido. Allora, sì, da questo punto di vista c'è un se volete c'è anche un elemento che può suggerire questo, perché la Juventus ha mollato Suarez molto prima che lui andasse a sostenere l'esame, diciamo quasi una settimana prima, e questo lo dico da, come dire, da suiveur del mercato, per cui poi quando hai le dritte da parte della società, da parte degli agenti, e in questo caso era da parte della società, e dire guardate, mollate sto Suarez perché abbiamo capito che non avrà mai il passaporto, o perlomeno non l'avrà mai in tempo per il 5 ottobre, e noi non possiamo permetterci di non avere, di tesserare un giocatore senza poterlo utilizzare in Champions. Questo era il messaggio chiaro, liquido, che è arrivato praticamente una settimana prima dell'esame di Suarez. Quindi da questo punto di vista era curioso per noi vedere che poi Suarez andasse comunque a fare l'esame dopo che avevamo avuto da più parti, e poi tra l'altro non soltanto erano parole ma erano seguiti i fatti, perché poi la Juventus aveva fatto un affondo deciso su Dzeko, sappiamo poi come è andata a finire, ma comunque si stava muovendo chiaramente su altre piste. Sì. Ma questo dico già diversi giorni prima che Suarez poi fecesse il suo blitz a Perugino, sì, per sostenere l'esame. No, chiaro, poi vedremo, la storia è brutta, concordo con quello che avete detto, ma aspettiamo, perché non è assolutamente l'apertura di un'indagine, ci sono poi delle prese di posizione della stessa Università di Perugia, al momento non si tratta di condannare nessuno, è una storia brutta. Sì, è una storia che peraltro risale a marzo. Cioè... No, esatto, ed è un'indagine seria questa, perché comunque credo che quello di Suarez sia solo un caso, che dentro ci siano altri episodi. Vediamo come si sviluppa, vediamo chi eventualmente può risultarne coinvolto. Al momento mi sembra giusto non commentare più di tanto. Quanto... guarda, questo è il principio, faccio una mozione d'ordine, il principio che dovrebbe valere per mille situazioni, perché sempre, molto spesso quello che succede è che c'è la giustizia, che è una roba complessa, importante, delicata, che ha giustamente i suoi tempi, e i tempi della giustizia sono molto lunghi. Poi ci sono i tempi del giornalismo, dove tutti i giorni si va in onda, dove tutti i giorni si stampano giornali, e quello che succede spesso, in questo caso qui non ci sono neanche degli indagati, in questo momento c'è soltanto un'inchiesta aperta, è quello di dare giustamente risalto a quello che succede. Però ci vuole, secondo me, la maturità da parte di chi ascolta, di chi legge, ma anche di chi fa comunicazione, di ricordare esattamente questo. Cioè, è l'apertura di un'inchiesta che va seguita, perché se non verrà seguita sarebbe una forma di censura e non va bene, quindi va seguita, e poi vedremo che cosa, se porterà qualcosa che sempre possa essere interessante per la prospettiva di noi che seguiamo essenzialmente il mondo del calcio. Questo è chiaro. Sarà soltanto un fatto di cronaca giudiziaria, ma va seguita senza processi sommari, perché insomma i magistrati hanno il diritto di prendersi tutto il tempo necessario. Noi ogni giorno parliamo da Roma, la Lazio, la Fiorentina, eccetera. Poi è inutile sventolare la bandiera del principio che è di civiltà, di non colpevolezza. Però non facciamo un giorno in pretura, parliamo invece di quello che succede calcisticamente parlando. Contropiede Morata, dicevamo, Guido, qualcuno storce la bocca, perché ne parlavamo prima con Carlo Pellegatti, non so se ci hai sentito, insomma, Morata bravo, bravissimo, non appartiene però alla categoria dei Dzeko e dei Suarez. Ho sentito il grandissimo Carletto e concordavo abbastanza con la sua analisi. Sì, no, è un livello leggermente inferiore, perlomeno il Morata che abbiamo visto negli ultimi anni, quello del Real Madrid, quello che faceva abbastanza panchina al Real, quello del Chelsea e quello dell'Atletico Madrid. È un centravanti internazionale, un centravanti di assoluto valore, però sì, Dzeko forse poteva garantire qualcosa in più. Qual è la chiave? Che bisogna capire come Pirlo però riesce a inserire Morata nella sua manovra offensiva, e quindi in realtà poi un giudizio vero e proprio lo proviamo a rimandare tra qualche mese, avendo chiaro quello che Morata può dare in questa Juventus molto interessante, molto divertente, che abbiamo visto esordire contro la Sampdoria. Quindi poi magari potrebbe essere un acquisto funzionale. A livello assoluto concordo con voi, è di un gradino sotto, ma credo che anche alla Juventus lo sappiano che sia di un gradino sotto. Certo che lo sanno, certo che lo sanno. È un giocatore funzionale, hai detto bene, esatto, un giocatore funzionale, a volte non è un acquisto. anche se poi in realtà chi conosce la Juve sa benissimo che nella prima cavalcata di Allegri verso la finale di Champions League Morata diede un contributo enorme, cioè Morata in quelle partite lì trascinò veramente la Juve fino alla finale di Berlino qualche anno fa. È un po' una scommessa, cioè una scommessa pensare che possa tornare su quei livelli. Sì, dai, siamo tutti d'accordo. L'avrei preso Suarez o Dzeko. Sulle partite però... internazionali, lui è sulle partite internazionali è uno in grado di fare davvero la differenza a volte, perché non ne bucava una quell'anno. Ha segnato con il Borussia, ha segnato con il Real, ha segnato persino in finale, che dando l'illusione del pareggio momentaneo contro il Barcellona Berlino. Faccio notare che un po' di acqua è passata sotto i ponti, ragazzi. Però 5 anni. Grazie Guido, abbraccio. Grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Prima di salutare Pierluigi, dammi un'ultima idea su cosa succederà adesso di Dzeko, che rimane a Roma per forza, e di Milik, Cerino in mano De Laurentiis. Ma allora, guarda, su Dzeko, io da quello che mi risulta, Dzeko è innamorato di Roma, innamorato della Roma, al punto che anche di fronte a un'offerta sicuramente molto, molto attraente, perché la Juve sono anni che vince, quindi figurati se Dzeko, onestamente, dal punto di vista professionale, come fai a non consigliargli una scelta del genere o a pensare che non sia minimamente intrigato? Anche di fronte a tutto quello, mi sembra che Dzeko si sia comportato sempre da professionista. L'altro giorno Jacopo Savelli ricordava l'episodio dell'amichevole a Cagliari nel giorno della nascita della creatura, e lui che prende l'aereo da solo. Sulla professionalità di Dzeko, ci metto la mano sul fuoco. È chiaro che qui siamo andati veramente a un centimetro dalla trattativa. C'è la cosa che è successa l'altro giorno dei 90 minuti di panchina. Insomma, qualche giorno ancora, secondo me, per metabolizzare ci sarà, però io sono convinto che Dzeko sia talmente professionale e talmente bravo che insomma non sia un grande problema per la Roma. Per la Roma è che secondo me c'era un'opportunità, diciamo, finanziaria di cambiare attaccante, di prendere un attaccante più giovane con 8 anni in meno, con un'operazione tutto sommato poco dispendiosa, e questa operazione non va in porto, ma cioè Dzeko tutto è meno che il problema della Roma. No, sicuro, ma come giocatore in assoluto, si poteva anche vincere, ma sicuramente, e invece vuole portarla a casa. E invece potrebbe pure perdere quella partita per la storia di Diawara, errore burocratico su Diawara in attesa della conferma giudice sportivo, però potrebbe essere 0-3. Ciao Piero, ti abbraccio. Ciao. Ci fermiamo per la borsa, poi apriamo il bar tour. Per la miseria, ragazzi, quanto sono carichi i milanisti, quanto sono carichi, quante risate ci faremo quest'anno! Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Marino Bartoletti intercedi per noi, anzi signorina Bartoletti, come la chiamò un giorno dell'altro ieri il Presidente della Repubblica Sandro Pertini in una nota diretta Rai. Scusi? Signorina Bartoletti. No, dico, lei è il conduttore di Tutti i convocati? Io sì, presente. Genta Carlo. Sì, ho un vago ricordo. Non fare così, perché sennò Turrini poi mi massacra. Allora, perché il direttore artistico può aver scelto questa canzone? Perché oggi è il compleanno della giovane Ornella Vanoni, che compie 86 anni, e io e il mio socio, già critici musicali maturi, l'abbiamo visto esordire con Streller a metà degli anni 50. Uno dei noi due, per la verità, non dirò mai quale, fece anche delle avance, ma era già innamorata di Gino Paoli, che le scrisse senza fine. Ci invita in questa canzone a mandar via la tristezza, ed è quello sì. che voglio dire al mio concittadino Andrea Dovizioso. Esatto, perché curiosamente in testa al più complicato campionato mondiale della sua carriera. Se non vince il mondiale divento matto. Proviamo anche con Dio non si sa mai, ma quello lo teniamo per la Ferrari. Chi avanzava queste chi è il protagonista di queste avance, Leo? Innanzitutto io saluto il ritorno del conduttore dopo una lunghissima vacanza. Lunghissima. E pensavo fossi stato chiuso nei sottoscala del billionaire, non tornavi più. E io mi trovo come sempre in contro, però Romano è certamente il ritrovato conduttore, vuole domandarmi perché. Noto che nulla è cambiato, perché? Guarda, c'è una fila qui, sono a Piero Cormano, tutti ex comunitari che si stanno dirigendo a Perugia perché vogliono fare l'esame per la cittadinanza italiana e conoscenza della nostra lingua, come ha fatto il pistolero Suarez. Ora io sarei anche tentato, in omaggio al pistolero Suarez, che è stato svelato, usava i verbi solo all'infinito, io oggi parlare solo all'infinito, e quindi domandare all'amico Bartoletti: perché tu, Bartoletti, chiedere a Ornella Vanoni uscire con te quando Ornella a suo tempo già impegnata con Gino Paoli? Ah, quindi è stato lui? Lui. Lei ricordare molto male, caro socio. Lei ricordare come Suarez all'esame, tutta la declinazione verbi italiano, capire, a Perugia, io molto bravo, molto bene. Conduttore, chiedimi perché sono fermo sulla tangenziale di Bologna fra San Lazzaro di Savena e Borgo Panigale. Ho il sospetto di saperlo, ma te lo chiedo lo stesso. No, invece non lo sai, perché si è diffusa la voce che sta uscendo il libro di Leo Turrini sulla famiglia Panini e ci sono già gli ingordi, non solo a San Lazzaro ma fino a Castel San Pietro Terme. Non ce la fanno a sfornare le copie. Libro uscire, io scrivere questo libro con stessa padronanza italiano di Suarez, quindi molto bene. Libro devo dire con punteggiatura, ortografia esemplare, no? Vuoi volere sapere il titolo? Volere sapere il titolo, anche perché parlare settimana prossima stiamo cercando un grande invitato per il Bar Tour. Dire solo titolo: Panini, storia di una famiglia di tante figurine, ma sempre parlare infinito per aggiungere: perché dubitare che Suarez, conoscere poco, masticare poco italiano, quando lui già morsicare orecchio Chiellini, lui masticare italiano benissimo, quindi giusto che avere superato esame. No, però io so che Suarez si è afflitto ancora dei gravi rimorsi. No, però io volevo che poi torniamo a parlare di questo in triangolo, che bellissimo, questo bellissimo triangolo Napoli, Roma, Juventus, Suarez, Dzeko, in questo caso un quadrilatero, la spuntata Morata, è tutto molto bello. Però, per favore, signorina Bartoletti, intercedi presso Dovizioso, perché se non vince il mondiale divento matto. Io sospettavo che, al di là del libro di Turrini sulle figu, il motivo della coda fosse la Ducati. Adesso le rispondo, conduttore. Prima naturalmente le debbo un chiarimento su questa signorina Bartoletti, prima che qualcuno pensi che io abbia fatto un salto a Casablanca. Correva l'anno 1982, conducevo la mia prima trasmissione importante, che era il processo di lunedì. Secolo scorso! Dire Suarez, si conosce, dire anche calendari e tutto, essere secolo scorso, sì. Caro Maritza. Sì, quando l'unico Suarez della nostra vita aveva il numero 10 con la maglia nerazzurra, forse lo ricorderai. Essere millennio scorso, caro Maritza. Sì. D'altra parte io, al contrario di te, sono nato nella prima metà del secolo scorso, tu sei molto più giovane. Però comunque 82 conducevi il processo del lunedì. Il processo del lunedì, e c'era Sandro Pertini, Presidente della Repubblica, che aveva detto che sarebbe collegato per 5 minuti, e dopo 50 minuti di, non posso dire di sproloqui naturalmente, perché gli abbiamo voluto e gli vogliamo tutto bene, comunque di effervescenze, a un certo punto disse che salutava la signorina Bartoletti. Non ho mai voluto indagare sui momenti di questa affermazione, avevo anche già i baffi per la verità, ma detto questo non era ancora nato Andrea Dovizioso, mio illustre concittadino, che curiosamente dopo 3 anni di, come come dire, di secondi posti nel mondiale, improvvisamente si ritrova in testa al titolo mondiale e nessuno di noi capisce perché, o forse esatto. perché non riesca, come dire, finalmente coronare questo sogno, che in questo momento appartiene almeno a una decina di piloti, e se guardiamo la classifica di MotoGP, che sembra più la classifica non della Moto3 ma della 125 di 25 anni fa. Io spero che sin dal prossimo Gran Premio in qualche modo come dire, riprenda coscienza delle sue possibilità. Spero che la concorrenza con Bagnaia, che sta arrivando a Borgo Panigale, malgrado l'ingorgo di qui sopra, e a cui tutti vogliamo un sacco di bene, l'abbiamo avuto anche in trasmissione un po' di tempo fa, se non ricordo male, sì, nella MotoGP, quindi un anno fa, beh, insomma, gli metta il sale sulla coda, gli faccia ritrovare quell'orgoglio romagnolo che da Francesco Baracca in poi non ci ha mai abbandonato. C'è un ascoltatore che scrive, non si firma, ma scrive spumeggianti mandando un sacco di bacini a voi due, ragazzi. Io vorrei invece chiedere a Leo quanto può costare pagare Hamilton per non correre e avere un mondiale combattuto anche lì? Io potrei dire che bacini mandare Ornella Vanoni per Marino, perché lei è collegata. No, adesso parlerò in una lingua che non è l'italiano, di Suarez, quindi non all'infinito. Beh, allora, intanto sul discorso del Dovi sono d'accordo con quello che ha detto il mio maestro, è una situazione surreale, perché lui è sicuramente un grande campione delle moto, paradossalmente si trova leader del campionato quando pare non avere più il benché minimo feeling con la rossa di Borgo Panigale. Io non sono un esperto, non me lo so spiegare, anche perché vediamo che con una Ducati del team satellite Bagnaia, a parte la caduta, fa delle bellissime cose. E sul discorso di pagare Hamilton, io l'ho detto scherzando mentre tu eri in vacanza al Billionaire proprio qui, perché vediamo che in assenza di Marquez il moto mondiale è meraviglioso, è molto di più, bravissimo. E mi è venuto in mente anche l'esempio di Alfredo Binda, che a suo tempo io e Marino c'eravamo, no? Perché partecipavamo a quella riunione, fu pagato per non correre il Giro d'Italia negli anni 30 certo. del secolo scorso. Certo, anch'io ci ho pensato. E venne fuori un Giro d'Italia bellissimo. Rodate 22.500 lire, ho il sospetto che Hamilton costerebbe un po' di più. No, ma il problema però, Marino, è un altro, che se anche noi pagassimo Hamilton perché non si presentasse, avremmo senz'altro un mondiale di Formula 1 spettacolare, equilibrato e divertente, ma con la Ferrari fuori dai primi 10 posti, perché come dice Crozza quando imita Binotto, la tragedia sportiva, vorrei dire anche emotiva in questa fase, è che non è che la Ferrari vada più piano di Hamilton sulla Mercedes. Ma più piano anche di tutti gli altri, quindi tu dici meglio risparmiare. È più lenta di tutti, sì, cioè pagheremo Hamilton per vedere vincere il mondiale alla Red Bull piuttosto che alla McLaren. Allora, no? Mi hai convinto, teniamo i soldini in tasca, ascoltiamo il traffico e poi torniamo a parlare anche di altre cose, perché ieri a proposito del mercato dell'Inter mi è venuto un paragone. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Ora che gli hanno preso anche Vidal, il signor Conte deve solo star zitto, lavorare e farci vincere. Adesso parliamo dei parti di mercato dell'Inter, però questa è troppo bella, non posso non chiedere un commento a Marino Bartoletti. Tu sai come si chiama il colonnello della Guardia di Finanza che si occupa dell'inchiesta di Perugia? Fammi sognare. Selvaggio Sarri. Sto scherzando. È fottuta, la Juventus è fottuta, non c'entrerà niente ma è fottuta. Perché quel magistrato è inallenabile totalmente, totalmente inallenabile. Invece l'Inter ieri, pensavo, Leo, che allora Vidal è arrivato adesso, no? L'idea di Vidal era di gennaio, è stato praticamente un parto, aspetta che a gennaio arriva Kanté. Ma adesso io questo non ti so dire, però ho visto com'era abbigliato Vidal quando è sbarcato a Milano all'aeroporto e ho pensato che era pronto per condurre insieme a Suarez la nuova trasmissione Parla come Manti, hai capito? Dedicata a una conoscenza perfetta della nostra lingua e anche della nostra cucina. Ma potremmo anche fare partecipare a un Bermuda Party Nainggolan. Ma io adesso vorrei aprire un dibattito, chiedere a Marino, ma quando io e te frequentavamo Meazza, Piola, Biavati, Schiavio, erano dei grandi campioni, ma mica andavano in giro vestiti come questi di oggi. Sì, non è che Hamilton, non è che Hamilton sia sempre in smoking. Ma sì, hai visto quella cosa che ha fatto Kimi, bellissima, sui social, no? Dove ha paragonato lo stile di James Hunt a quello di Hamilton, dicendo l'evoluzione della specie, Raikkonen è un genio, no? E poi sotto ha postato una sua foto completamente ubriaco, dove dice però non perdete ancora tutte le speranze. No. Vabbè. Beh, non frequenti i social come voi ragazzi. Marino, piuttosto vuoi rispondere? Su che cosa? No, su cioè, no, tu... allora Conte, io, è chiaro che io ho fatto un sondaggio sulla mia modestissima eppure abbastanza frequentata pagina di Facebook e i followers, che come dite voi giovani, hanno decretato una vittoria di strettissimissima misura dell'Inter sulla Juventus. Un campionato molto combattuto, forse non ci voleva il sondaggio, però può essere molto verosimile. Interessante il terzo posto che hanno attribuito al Milan prima della che cominciasse la prima giornata di campionato. Ora, anch'io sono convinto che l'Inter sia la squadra, non da oggi, che più di tutte si è attrezzata per porre fine in qualche modo all'egemonia della Juventus. Altre si lagnano, ce ne sono alcune invece si attrezzano, come ha fatto l'Inter, come ha fatto lo stesso Milan, come hanno fatto altri obiettivamente, perché la corsa allo scudetto è aperta, non dico quasi quanto la MotoGP, ma abbastanza. Certamente c'è una grande spada di Damocle, la prima giornata in cui le cose non andranno benissimo e ci sta fisiologicamente, che farà Conte? A chi darà la colpa Conte? Quanto saranno, come dire, portati alla sopportazione quei dirigenti che a questo punto di crediti nei confronti di Conte, di crediti non ne hanno assolutamente più? Come supererà l'Inter questo eventuale impasse? Se tutto filerà liscio, io penso che Conte non potrà dire sono arrivato e ho trovato il pacchetto che c'era, devo fare la Champions con gente che viene dal Cagliari, dal Sassuolo, eccetera eccetera. B, ripeto, non avrà più scuse, perché in questo momento credo che sia l'allenatore a cui la propria squadra ha dato verosimilmente di più di tutte le altre. Hai capito, Leo? Ma io ho capito, da interista ringrazio il maestro Marino per questa bella gufata e spero che Conte... Beh, ma sono venuti dai followers di Marino, mica da lui. Io credo che Conte si possa iscrivere tranquillamente alla scuola di congiuntivo che verrà tenuta dal maestro Suarez, perché ogni tanto quando sbarella davanti ai microfoni il grande Antonio si perde un po', come Fantozzi, della giungla del congiuntivo. E poi lasciami aggiungere una cosa, sì. Tengo il famoso pezzo di Ornella Vanoni che oggi compie gli anni, sapessi com'è strano sta roba qui, no? Appuntamento, Amore fai presto, io non esisto, io non resisto. Era dedicata a Marino, questa è la vecchia conoscenza che sì, questo che è uno scoop assieme, questo è uno scoop fa, devo dire, è un ricordo molto bello, molto molto bello. E già in quella circostanza, insomma, la Vanoni disse vorrei smentire che sia una signorina questo Bartoletti, e non so spiegare perché era in grado di smentire, vero? Perché sono un gentiluomo. Vabbè, ragazzi, come è strano avere un appuntamento a Milano, me l'ha dedicata a me Moremigi, se vogliamo essere sinceri. Grandissimo, ma non esattamente la stessa cosa. Marino, stiamo organizzando una festa per l'uscita del libro di Leo Turini la settimana prossima qui al Barturn, tra una settimana. Capito? Quindi... Beh, è una cosa memorabile. Io già vedo la fiction, intanto non mi fermo al libro naturalmente, vedo già la fiction su Rai 1 possibilmente. Adesso dobbiamo pensare anche agli interpreti, perché i panini sono tanti, eh? Quindi si andrà da Scamarcio a Favino a Mastandrea, sarà difficile dargli a Peppino la pronuncia modenese, però va bene così. Ed è l'evento letterario non dell'anno, ma del secolo, direi, forse del millennio. Come disse Guccini quando sentì Vecchioni cantare Luce a San Siro, e disse: perché questa è la canzone non l'ho scritta io? Io posso dire: perché questo libro non l'ho scritto io? Grazie ragazzi. Qui al Bar Tour, martedì prossimo, grazie anche ovviamente a Leo Turini e Marino Bartoletti. a Gianmarco Ferronato e ci sentiamo domani e a Lorenzo Nespoli, chiaramente ci sentiamo domani alle 2, ciao ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ci vediamo domani, enjoy, saluti. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.